Benvenuti a tutti e a tutte su Mala Radio, nuova stagione ma vecchie rubriche. Abbiamo deciso di non relegare questa rubrica in un quarto d'ora, mezz'ora all'interno di una puntata, bensì di fare delle puntate biografiche di autori che riteniamo importanti, soprattutto all'interno di un movimento come il nostro, dei cantori anarchici, cantori di lotta. E questa settimana parliamo di Georges Brassens, perché da poco, il 22 di ottobre, si è celebrato il centenario della nascita e il 29 di ottobre dello stesso mese si è celebrato il 40esimo della morte. E abbiamo deciso di parlare di lui perché riteniamo che sia uno degli esempi massimi, il primo esempio di poeta anarchico della canzone, dato poi vedremo l'importanza che ha avuto anche non solo in Francia ma anche in Europa. Direi che possiamo mettere la prima canzone, La mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde méfie de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Ecco, abbiamo sentito questa canzone del 1952, che in realtà è la prima canzone scritta da Georges Brassens fu portata a un cabaret di Montmartre. Diciamo che in questa canzone c'è già un minimo il manifesto di questo cantante, di questo poeta, che racconta di lui come si vede tagliato fuori dalla società in quanto anarchico, in quanto non giudica i ladri, dice. Come se io trovo qualcuno che segue un ladro da mele, un ladro da poco, io gli faccio lo sgambetto in maniera tale che lui si possa sopravvivere, perché se ruba è per fame. Quindi diciamo che qui, poi vabbè, la canzone finisce con lui appeso e i ciechi che non lo sono gli unici che non lo vedono sono i ciechi, perché ovviamente sono ciechi, quindi c'è una sorta di presa per il culo della società perbenista degli anni 50 in Francia durante il gollismo. E lui porta questo. Lui non aveva scritto, ma non aveva ancora cantato, era molto timido. Lui arrivò da un paesino vicino a Montpellier, si chiama Sète, una città, figlio di un muratore anarchico e ateo, e sua mamma invece molto cattolica e di origine italiana, esattamente dalla provincia di Potenza, di Latronico. Quindi nasce in un ambiente sereno e comunque nasce in un contesto molto, molto libero in casa, non lo impone. E quindi decide di. Verso i 25-30 anni decide di partire, di andare a Parigi a cercare fortuna e incomincia a a scrivere canzoni, a cantarle, prima di tutto a scriverle poi. È sempre stato un po' restio a cantare, è sempre stato un po' timido, e forse questo è un tratto che in alcuni cantanti tipo De André, da cui poi vedremo, De André ha preso un sacco, ha tradotto due o tre canzoni che sentiremo nella diretta di oggi, sono sempre un po' allergici alle esibizioni. Quindi questa è sicuramente cioè lui come prima canzone dice: io sono questo. Parla di lui come uno, un escluso, no? Un reietto. E diciamo che nello stesso periodo scrive un'altra canzone che è molto conosciuta perché ci sono un sacco di versioni, c'è la versione italiana di De André e la versione in milanese di Anni Svampa. Quindi io non vi dico il titolo, dovete indovinarla. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Garogorie! Patron de la ménagerie, criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut lui reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogorie! Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadrumane accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie! Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorie! Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces 4 jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogorie! Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorie! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorie! Come la mauvaise réputation è stata il manifesto di Brassens, questo è un altro manifesto dal punto di vista politico, però, di Brassens. Questa, come l'avete sicuramente riconosciuto, è Le Goriglio in francese, poi tradotto sia da Svampa e De André, Svampa in milanese e De André in italiano, col titolo di Svampa il gorilla, mentre invece De André con il gorilla, ed è una canzone contro la pena di morte, contro la repressione giudiziale, e racconta un po' la storia di questo giudice che condanna un poveraccio all'impiccagione, alla pena di morte, perché ricordiamo che in Francia la pena di morte è finita negli anni 80, c'era ancora la ghigliottina, quindi parliamo di un paese molto civile in realtà, no? Quindi tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 finalmente hanno tolto la ghigliottina. Quindi c'è questo ragazzo, come, esattamente come quando andava a cantare a Place de Terre da Patachou, che era un cabaret, un café chantant si direbbe, a Montmartre, cantava sia la mauvaise réputation che questa. E c'è un racconto che ci fa il buon Riccardo Venturi, tanto gli fa piacere, di antiwarsongs.org, sulla prima esibizione del Goriglia, che lui è arrivato su e usava praticamente la chitarra come una zampa, e quindi non riusciva a cantare e suonare allo stesso tempo. Fortunatamente poi c'era un altro musicista che stava ascoltando l'esibizione, è salito su, l'ha aiutato. Il risultato è stato talmente importante che questa è diventata forse la canzone più famosa di Brassens, ed è stata la canzone più censurata in Francia per un sacco di tempo, perché per l'idea di un giudice che viene praticamente violentato da un gorilla perché aveva come giustizia, come ripicca, come soprattutto vendetta rispetto alla condanna a morte di un poveraccio. E Riccardo Venturi qui ricorda che ha preso una cassetta e c'era scritto sulla cassetta: Attention, chanson pas pour toutes les oreilles. Attenzione, canzone non per tutte le orecchie, perché diciamo che veniva definita insomma una canzonaccia d'osteria, però diciamo che come canzonaccia d'osteria ha avuto un successo che tuttora molti compagni e compagne la cantano. Possiamo andare avanti con. En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus. Je semais des violettes et chantais pour des prunes, étendais la patte au chat perdu. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Un soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte, je m'empresse d'ouvrir, sans doute un nouveau chat, nom de Dieu, le beau félin. Que l'orage m'apporte, c'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Les yeux fendus et couleur de pistache, t'as posé sur mon cœur ta patte de velours. Fort heureusement pour moi, t'avais pas de moustache et ta vertu ne pesait pas trop lourd. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Aux quatre coins de ma vie de bohème, tu as promené le feu de tes 20 ans. Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs, mes poèmes, c'était toi, la pluie et le beau temps. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Mais le temps passait, fauche à l'aveuglette, notre amour mûrissait, t'as peine que déjà tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes et faisais des misères à mes chats. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Le comble enfin, misérable salope, comme il ne restait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne et pour une escalope te jeter dans le lit du boucher. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. C'était fini, t'avais passé les bornes, et renonçant aux amours frivoles d'ici-bas, je suis remonté dans la lune en emportant mes cornes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Abbiamo parlato di Brassens come poeta politico, come poeta di lotta, un poeta anarchico, ma in realtà parla anche di cose terra-terra, di cose romantiche, e qui racconta di un amore, insomma. cioè al di là della questione politica, lui è stato anche un cantore, cioè è proprio è stato veramente un cantautore a tutto tondo, ecco. E diciamo che lui incomincia a scrivere, a cantare canzoni perché a lui piace molto un cantante che politicamente non dice nulla, però è stato forse il cantante più importante degli anni 40 in Francia, ovvero Chartrain, l'uomo con la paglietta, cioè famose sue canzoni di Traîner sur la mer e Douce France, che non mettiamo in questa puntata, però per dire che tipo di ascolto lui aveva delle canzoni, non, a parte che prima di lui veramente Brassens è stato uno spartiacque tra la canzone d'autore e la canzone politica, cioè lui è uno di quei pochi esempi dove canzone d'autore e canzone politica si incontrano. Non tanto importante è la musica, infatti come potete sentire la musica è abbastanza ridondante, come una ballata serve ad accompagnare le parole, ma fondamentale in Brassens è il testo, anche in questa che è una canzone d'amore. Comunque diciamo che Brassens vive il suo tempo, ha delle conoscenze importanti, comincia a legare con gli altri due cantanti famosi tra gli anni 50 e gli anni 60 della Francia politica. Parliamo di uno è belga in realtà, Jacques Brel è belga e poi c'è Brel e poi c'è Boris Vian, di cui ricordiamo Le Déserteur, fatto poi da Ivano Fossati, tradotto da Ivano Fossati nell'album Lindbergh di Fossati, Il disertore. Sono veramente i tre simboli di una Francia che cambia, di una Francia che smette di ascoltare bellissime canzoni tipo La Piaf, Montan, Aznavour, e ha bisogno di qualcosa di più, sia della canzone d'autore ma anche dell'impegno politico. E Brassens è il primo esempio che racchiude entrambe le cose. Per rendersi conto di quello che è Brassens in questo, ci ascoltiamo una canzone che è più una dedica anche ai suoi genitori, e qui però si vede anche l'aspetto politico in questa canzone, altra canzone tradotta da De André, ma non vi dico qual è il titolo perché dovete indovinarlo voi. Ascoltate la descrizione, per chi più o meno il francese lo sa. Ascoltate bene la descrizione che fa dell'ambiente dove si svolge la canzone. Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs. Des soi-disant notaires, quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps. Je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère allèrent t'épouser devant monsieur le maire. C'est dans un char à bœufs, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles, cortège nuptial hors de l'ordre courant. La foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle, emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voilà la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues, tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue et vive la mariée. E eccoci qui, quindi penso abbiate tutti riconosciuto la marcia nuziale, la marcia nuziale che poi De André ha tradotto negli anni 60, perché comunque quando si dice che Brassens è stato un ispiratore per De André, è stato un ispiratore per Svampa, ma anche all'estero, è stato per esempio per Paco Ibáñez, un cantautore spagnolo che ha rifatto in spagnolo la mala reputación, quella che abbiamo sentito in apertura. Perché parlo di Svampa? Perché questa, al contrario delle altre canzoni, è una canzone che Svampa fa in ben due versioni, in italiano e in milanese. E questa canzone, con questa canzone ritorniamo al Brassens di tipo politico. E si immagina una situazione un po' paradossale. Siamo al mercato di Brive-la-Gaillarde, Svampa la mette al mercato di Porta Romana, e ci sono delle signore che vedono dei gendarmi e decidono di rivoltarsi. E noi vediamo questa scena, la vediamo dal punto di vista di Brassens, che è nella sua stanzetta e guarda la scena di queste donne che picchiano gli sbirri. Li picchiano. E come li picchiano? Mettendo la testa nelle chiappe, mettendo la testa dello sbirro nelle chiappe, usando il seno, i grossi seni come sberle, e lui si immagina questo. Svampa la rende molto più colorita e soprattutto queste donne riescono a fare una cosa, che a far dire a un gendarme: viva viva l'anarchia. Quindi ci sentiamo le catombe e buon ascolto. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hip hip hip hourra. frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Bene, quindi abbiamo sentito di questa ecatombe di sbirri al mercato. Questa ovviamente abbiamo sentito prima il tema dell'essere un diverso all'interno della società, poi abbiamo sentito parlare di amore parlando Madonna te, putain de toi, cioè in una maniera un po' fuori dal comune, poi abbiamo parlato dell'essere contrario alla legge borghese, alle sue regole, e quindi una sorta di vendetta, tra virgolette, di Brassens. E poi abbiamo sentito proprio la rivolta del popolo contro l'ordine costituito, contro le forze dell'ordine. E quindi, ricordiamoci, siamo in una Francia ancora molto perbenista, non ci sono ancora state le lotte studentesche, non c'è, siamo proprio... La Francia ancora domina l'Algeria, siamo ancora in un mondo precoloniale dove ci sono delle lotte, sì, ma non sono organizzate, non porteranno a quello che poi sarà il 68, soprattutto in Francia. E quindi ovviamente le canzoni di Brassens venivano ascoltate da una sorta di nicchia intellettuale, di sinistra, anarchica, e il resto della società come la piglia? Ovviamente il resto della società è contrario. Non a caso abbiamo detto che il Gorilla è stata la canzone più censurata di Francia. E lui come risponde? Lui risponde dicendo: ah sì, a voi non sta bene che io dica parolacce, che io sia controcorrente, io vi scrivo una canzone dal titolo Il pornografo, Le pornographe, 1958, Georges Brassens, Le pornographe. Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots, et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin, je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurai sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elles poussent au moins rue Blondel, dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mormal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Quindi questa era una denuncia da parte di Brassens, insomma, più che una denuncia, dire signori, a me non interessa come pensa la morale dominante, io sono così, io parlo così perché è il mio modo di esprimermi, quindi devo dire che aveva anche ragione, perché nonostante siano piene di frasi che oggi qualcuno anche all'interno di noi direbbe che siamo proprio al limite del cosiddetto vocabolario utilizzabile, però è fuori di dubbio che sono tuttora, dopo 40 anni, dopo 50 anni, dopo 60 anni, queste canzoni sono ancora dei piccoli capolavori, delle piccole perle. E tornando sempre sulla polemica Brassens, successo, morale, eccetera, diciamo che se anche lui ha cercato sempre di essere molto, molto in disparte, non è mai stato un personaggio che non ha mai voluto utilizzare le sue canzoni per fare politica, per esempio. Lui dice: io sono questo, io do questo alla gente. Non mi piace neanche tanto fare i concerti, io i concerti li faccio perché li devo fare. Lui addirittura, se non ci fossero stati degli intellettuali francesi, forse non l'avremmo mai sentito manco suonare la chitarra, per dire. A lui piaceva scrivere canzoni più che suonare, come abbiamo ricordato con l'esempio di quello che è successo quando ha cantato il gorilla al Café Chantant di Montmartre. E, sempre su questo tema, lui fa un'altra canzone che è ancora più cattiva, questa volta sul rapporto tra musicista e successo. Le trompette della renommée. Le trompette della renommée sono come, diciamo, le trombe del successo, cioè stare dietro alle trombe del successo, agli echi del successo, fare in modo che quello che tu racconti alla fine si sminuisce di fronte al successo che vuoi ottenere, quindi ti puoi anche, come si può dire, puoi anche svilire il significato di quello che canti perché vuoi avere successo, quindi metti da parte un po' l'idealismo e invece vai verso il successo. A lui non è mai interessato, e in questa canzone lo spiega. Le trompette della renommée, Georges Brassens. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélopes passeront illico pour de fieffées salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. Je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je, pour défrayer la chronique des scandales, battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement, comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Une femme du monde, et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés dans ses quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions? Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante. Lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris aux genoux de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux 100 bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qui est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qui est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout un chacun, j'étais un peu tapette? Si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle, mais je ne sache pas, ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Après ce tour d'horizon des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors dardard. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Bentornati allo speciale Brassens qui su Mala Radio. Quindi abbiamo sentito questa canzone che è un po' in risposta al dubbio che hanno un po' di artisti, no? Soprattutto quando fanno una canzone prettamente politica, se scegliere il successo e quindi un po' lo svilimento del messaggio che invia tramite la canzone, oppure rimanere duri e puri. Immagino, perché sa un minimo di francese, capisca da questa canzone dove ha deciso di rimanere Brassens. Adesso mettiamo su una canzone che è una canzone, diciamo, è il Brassens forse più duro politicamente, è un Brassens che va contro i festeggiamenti della madrepatria, contro una sorta di stato che si autocelebra, di gente che si mette le medaglie per militare al valore, li definisce in un solo modo questa gente, a parte Servi, a parte, ma le definisce come, che in italiano è definibile come coglioni, cioè come insomma, come gente che vede nella madrepatria una sorta di. Qui stiamo andando verso già una Francia che comincia a perdere le colonie, quindi c'è tutto un discorso. Siamo quasi alla guerra di Algeria. Qui siamo quasi a una difesa fino all'ultimo della Francia dei propri confini oltremare, quindi tutto dell'Algeria e di tutti gli altri possedimenti in Africa e in Asia, e qualcosa in Asia, perché c'era stata la guerra in Indocina, quindi comunque c'è tutto un mondo che sta cambiando in generale, e la Francia, che è stata uno tra i paesi con più colonie all'interno dell'Europa, comincia a perdere un attimo il dominio sulle colonie. E quindi questo arroccarsi sui valori di patria e Stato e tutto quanto fa sì che Brassens scrive La ballade des gens qui sont nés de quelque part, la ballata di gente che è nata da qualche parte. Georges Brassens. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rendent jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance, ils plaignent de tout cœur, les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux, quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares. Ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quindi questa canzone, abbiamo detto, parla di quanto siano stupidi quelli che si mettono le medaglie e fanno combattere le guerre. Guerra agli altri e soprattutto quelli che pensano che la patria sia più, che la patria sia un'istituzione importante. Come abbiamo detto, li chiama imbecilli, cioè praticamente è una demolizione di queste persone da parte della gente. La prossima canzone è una canzone che anche questa è stata tradotta da De André, Mourir pour des idées, è una canzone dove questa nasce in polemica con un'altra canzone che non abbiamo, facciamo in tempo a sentire, che è, le, almeno però la cito, dov'è? Les deux oncles, sì, è una canzone dove lui parla della guerra in un modo che non piace a chi piace l'anarchismo di Brassens. Insomma, ci sono delle polemiche sul fatto che è stato meno cattivo del previsto in questa canzone a descrivere la brutalità della guerra, perché poi ovviamente la polemica sarà sul fatto che Brassens nella canzone di Dosompe dice: io non voglio neanche combattere la guerra, non mi interessa, anche se non esistono guerre giuste e guerre sbagliate, la guerra non deve esistere. E quindi molti compagni, molti della cerca di compagni fanno capire che in realtà delle guerre che è stato giusto combattere ci sono state, vedi la guerra civile spagnola, vedi altri, e quindi lui dice: ah sì, io sapete come vi rispondo con questa canzone Morire per delle idee, e sentiamo il testo che cosa dice, poi lo analizziamo. Mourir pour des idées, l'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté: mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort hante. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Eccoci di nuovo. Quindi praticamente lui dice: ma bello per morire per delle idee, strano, io non avevo mai avuto questa idea. Guarda, stavo rischiando anche di morire senza averla mai manco pensata. Quindi è quasi una presa per i fondelli di un certo tipo di gente che si mette a criticare, perché lui non ha, in realtà non ha mai voluto fare rumore. Forse una critica che gli hanno fatto, che posso condividere, è il fatto che lui durante i sommovimenti del 68 non si è mai sceso in piazza, ma non è mai interessato in realtà. È sempre interessato parlare del suo mondo, parlare delle sue idee, parlare dei gatti, delle donne, dell'anarchia, forse uno che parla di massimi sistemi, no, perché parla di situazioni popolari, perché lui comunque, ricordiamoci, è figlio di un muratore, di una casalinga, cioè tutto quello che lui ha studiato l'ha studiato grazie agli influssi paterni, ma soprattutto perché gli interessava. Quindi è uno del popolo che parla al popolo come il popolo, però non gli piace la notorietà, l'abbiamo visto, no, durante il nostro percorso, non gli piace la notorietà, gli fa piacere, certo, che ci sono anche dei cantanti per cui lui è un riferimento, più volte ha incontrato Danny Svampa nella sua vita, Danny Svampa è andato anche a trovarlo a Parigi, a set, insomma, nei luoghi, si sono incontrati più volte, gli ha regalato pure il famoso disco, i suoi dischi, quindi poi lui Svampa ha avuto il modo proprio di tradurli, ha fatto un grosso lavoro di traduzione Svampa, perché l'ha tradotto prima in italiano e poi l'ha ritradotto nella lingua che Svampa conosceva meglio, ovvero il dialetto milanese. Quindi ha dovuto fare anche Svampa ha fatto anche un lavoro meraviglioso di riadattamento, ha dovuto cambiare i luoghi, perché la canzone milanese, il fatto che il mercato era di Brive la Gaillarde, non significava nulla. Se volevi fare una canzone popolare alla milanese, dovevi metterlo in un quartiere popolare di Milano che era a Porta Romana negli anni 60. Quindi ha trasposto tutto il discorso di Brassens nelle periferie milanesi. nei quartieri popolari di Milano. La prossima canzone è una delle canzoni forse più belle di Brassens, perché il testo innanzitutto non è suo, ma è una delle poche canzoni che lui prende da delle poesie, perché comunque questi autori, anche altri autori di quel periodo francese, traducevano in canzoni poesie, sono state tradotte anche Brassens, ha fatto canzoni di Verlaine, poesie di Verlaine, di un po' di poeti maledetti, anche i poeti del primo Novecento l'hanno trasposta in canzone, e questa è una canzone che poi fu ripresa, anche questa, da De André, ed è una poesia in realtà di Antoine Poiry del 1911, pubblicata su Émotion Poétique, un'opera del 1918. La canzone è Le Passant. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Bene, questa era Le Passante, tradotta poi in Italia da De André, come ho detto, e non è l'unica canzone, come dicevo, che in realtà è presa da una poesia. Anche la prossima, anche se la prossima in realtà è una, più che una traduzione, è un omaggio a un grande poeta che è Paul Valéry, diciamo che secondo me c'è anche un'idea dietro a questa canzone che adesso sentiremo, che è Supplique pour être enterré dans la plage de Sète, ovvero supplica per essere sepolto nella spiaggia di Sète, che ricordiamo il suo paese natale. Diciamo che è un omaggio a Paul Valéry con il suo poema Cimetière Marin, però in realtà secondo me è anche un desiderio, no? Perché comunque lui è stato molto legato alle Rocche, praticamente una regione della Francia che è nei pressi di Montpellier, quindi parliamo proprio del sud-sud della Francia, occitano, infatti se qualcuno sa il francese si sa che la S alla fine dei cognomi non si dice, ma nel francese del sud si dice Brassens e non Brassin, Brassens, perché la S in realtà è un cognome occitano, quindi diciamo tutta quella parte del sud, che parte dal sud, dal Piemonte meridionale, arriva attraverso il Col di Tenda, fa tutto il sud della Francia per arrivare fino a quasi a Tarragona in Spagna. Quindi questa è una canzone che lui si autodedica, lui vuole essere sepolto in questa bellissima città di mare che è Sète, e anche se il cimitero di cui parla non è quello di cui sarà sepolto, è comunque stato accontentato. Quindi questa è una canzone, una sorta di dedica, diciamo, finale sulla fine vita di Georges Brassens, che ricordiamo muore per cancro intestinale il 29 ottobre 1981, esattamente 40 anni fa. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advînt de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené, dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusés. creuser, si c'est possible, un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette. Auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ces vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin, plantez je vous en prie une espèce de pin, pin parasol de préférence, saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil berceront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Bentornati in diretta. Quindi questa era, diciamo, una sorta di dedica nostra anche a lui, dicendo, sentendo anche come descrive il suo luogo natale. Volevo tornare un attimo indietro. Prima ho detto che c'erano solo tre cantanti politici in Italia entro gli anni 50 e anni 60, e mi sono dimenticato di un grandissimo, Leo Ferré, che scrisse tra le tante canzoni una delle mie canzoni preferite, che si chiama L'Âge d'Or, l'età dell'oro, insomma, è una sorta di speranza di un mondo migliore, ma non solo dal punto di vista politico, ma proprio anche di stato mentale e fisico. È una canzone molto bella, io vi consiglio la versione che hanno fatto gli Zebda con il gruppo Motivé, nell'album che adesso hanno ripubblicato recentemente. Rispetto a quello di 20 anni, 1997-2017, i Zedda, i Motive hanno fatto questo album di varie canzoni di lotta, c'è proprio questa canzone molto bella di Leo Ferré. Tornando a noi, prima di mettere l'ultima canzone, volevo solo ricordare che non c'è solo, abbiamo parlato prevalentemente di due autori italiani che hanno tradotto Brassens, ovvero De André e Nanni Svampa, ma in realtà non sono stati i soli. Perché potete trovare la cattiva reputazione fatta da Isurut Humana, un gruppo folk molto, molto famoso una quindicina di anni fa. Poi abbiamo avuto Alberto Patrucco, il comico, quello di Zelig, che fece la stessa versione della cattiva reputazione con Andrea Miró, l'hanno registrata, e poi alla fine un cantante dialettale piemontese, Beppe Chierici, che ha fatto addirittura due album dedicati negli anni 70 dedicati a Brassens, messo in piemontese. Quindi diciamo che è stato un autore molto, molto apprezzato, molto conosciuto, molto apprezzato per la profondità delle sue parole. E fu talmente apprezzato che anche in Francia, dopo la sua morte, Georges Moustaki decise di dedicare una canzone, perché però ha dedicato in realtà come una descrizione di chi ascoltava, di chi fossero gli amici di Brassens. Insomma, c'è questa per far capire che Georges Brassens non è nient'altro che la riproduzione di un mondo intellettuale, di un mondo di compagni che Brassens ha contribuito tra i primi a far uscire. Non più le canzoni bellissime, per carità, alla Piaf o alla Aznavour, bensì delle canzoni che diventassero anche un manifesto politico. Prima di salutarci, però, con l'esame di Georges Moustaki, ricordiamo che ci potete scrivere tramite Telegram, Signal, al 351 9182 899. Seguitemi alla radio su Telegram, su e su Signal, anche su Messenger, alla pagina Facebook Mala Radio, anche su Instagram. Potete scriverci una mail a malaradio@autistici.org, oppure seguirci sul nostro blog malaradio.noblogs.org, dove troverete questa e le altre puntate che abbiamo registrato. E soprattutto anche per aiutarci, se volete, se vi è piaciuta questa formula nuova di questa, che è una rubrica già presente nella passata edizione di monografie o su autori o su eventi che a voi interessa, su cui noi facciamo una ricerca. Se ce lo scrivete, noi saremo ben contenti di fare questi speciali. Quindi, prima di salutarvi, vi ricordo che se volete scriverci, noi siamo ben contenti. Quindi adesso, prima del ciao finale, l'esame de Georges Moustaki. Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs. À l'époque, ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon. Avant qu'on les enferme dans des micro-sillons, ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie, quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait, à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang. Pour devenir quelqu'un, il traversait la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la légion d'honneur qu'il eût cru. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare toujours là. C'est toujours l'ami Georges qui donne le la. Mais tout comme lui, ils ne savent toujours pas rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas. Dans les rues de Paris, sur les routes de province, il mendie quelquefois avec des airs de prince, en chantant des chansons du dénommé Brassens. E con questa dedica da parte dell'amico Georges Moustaki, con addirittura l'assolo delle Copain d'Abord a sottolineare la fine della canzone, finisce anche qui questo primo appuntamento, questo esperimento che abbiamo voluto fare, perché comunque ci era sembrato che fosse piaciuta l'idea di mettere uno spazio sulle canzoni di lotta, sui cantautori. Quindi spero che questa diretta, questa oretta e 20 passata insieme parlando di Georges Brassens vi sia piaciuta, e quindi rinnovo ancora la richiesta: se volete, se vi piace un cantante particolare, anche che non sia di lotta, comunque un cantante su cui si riesce a fare un discorso, oppure vi interessa ricordare un fatto particolare avvenuto, quelle date, insomma le date storiche, delle rievocazioni, noi cercheremo di mettere in piedi una cosa del genere con inserto tra canzoni e spiegazioni, che ci sembra il modo migliore per fare memoria, perché è vero, è importante la lotta al presente, però ricordare chi ci ha preceduto, i compagni che ci hanno preceduto, è sempre importante. Buonasera a tutti e a tutte, grazie.